Summertime di Elisabetta Fiorito. Mio caro amico Ortensio, sei tu, conosci qualcuna, una donna abbastanza ricca da essere la moglie di Petruccio, perché vale bene, è la ricchezza la chiave di violino della mia marcia nuziale, fosse anche ella scontrosa, viziosa come la Santippe di Socrate, peggio, flatulente, immonda, come la Sibilla umana, o peggio, gonfia come le onde dell'Adriatico, quando è in tempesta. La cosa non disturba né conturba la mia predisposizione all'amore. Io sono venuto da Verona a Padova a cercare moglie, a trovare moglie, a sposarmi felicemente, felicemente, a Verona come a Padova vuol dire riccamente. Signore, sposatelo anche un fattoccio, purché abbia quattrini va tutto a posto. Fattoccio, è ricca e nobile, educata come meglio si conviene ad una gentil donna. Il suo unico difetto, ed è un difetto non da poco, è che è intollerabilmente indiavolata, estetica, è prepotente. Ma come non fa niente, in un modo così, così eccessivo, che se mi trovo in una condizione peggiore di quella in cui mi trovo, non la sposerei per niente al mondo. Ma perché tu non conosci il mondo e soprattutto non conosci il potere dell'oro? Perché io partirò al suo arrembaggio e avrò ragione, strepitasse anch'essa come fanno i tuoni quando d'estate d'inverno scoppia tra i temporali. Buon pomeriggio, noi siamo andati al Globe ieri, dove c'era la prima della Bisbetica domata di William Shakespeare, al Globe di Roma, ovviamente in Villa Borghese, e quello che avete sentito è Maurizio Donadoni che interpreta Petruccio, e poi la regia dello spettacolo è di Marco Carniti e la bisbetica Caterina è Sandra Collodel. Allora, diamo il benvenuto ai nostri tre ospiti, iniziando proprio dal regista dello spettacolo Marco Carniti. Buon pomeriggio, una rappresentazione un po' particolare, diciamo non troppo classica, ecco. Sì, beh, c'è sempre il problema quando si interpreta Shakespeare di cercare di avere uno sguardo un po' dell'uomo contemporaneo che lo legge e nello stesso tempo mantenere quella che è la struttura e la base poetica classica. Quindi in più Bisbetica domata fa un discorso molto, molto forte, molto preciso sulla guerra tra i due sessi, che si presta naturalmente a una lettura, a una lettura contemporanea in qualche maniera, anche perché oggi parlare della domatura di una donna da parte di un maschio, in qualche maniera che un maschio padrone, è una qualcosa che può risultare anche politicamente incorretto. Sgradevole, oserei dire. Le guerre e le lotte che sono state fatte dalle donne nei cieli. Quindi ecco, credo che a mettere in scena oggi Bisbetica non può non tenere presente questa emancipazione. E nello stesso tempo bisogna far sapere al pubblico che comunque questa lettura è come nel Mercante di Venezia, questa lettura shakespeariana e questa, diciamo, la storia della Bisbetica si rifà a una novella medievale di marionette, e che quindi le botte e tutto quello che era la violenza, diciamo anche psicologica, non aveva nulla di psicologico, ma erano quasi da commedia dell'arte, sono come le botte di Arlecchino, e quindi anche molto importante questo. Guardando al contemporaneo, naturalmente io ho visto la Bisbetica come una guerra tra uomo e donna che avviene ad armi pari, e quindi l'ho ambientata in una specie di palestra, un ring, una gabbia nella quale lei in qualche maniera è metaforicamente chiusa, come se fosse il carattere bisbetico, una gabbia nella quale una donna si chiude proprio perché ha un problema con il mondo, e all'interno di questa gabbia, che diventa una palestra da box, lei si scontra col suo Petruccio ad armi pari. Questa gabbia naturalmente verrà dissolta dall'amore, perché poi quello che in qualche maniera vince alla fine anche qui è l'amore, che in qualche maniera addolcisce il carattere di questa donna. Quindi guerra ad armi pari all'interno di un luogo di trasformazione, cioè la palestra da box sta a indicare la metafora di un mondo dove l'uomo può assumere una trasformazione, no? Come avviene realmente all'interno di una palestra, in cui uno non solo addestra e trasforma il proprio fisico, ma attraverso il proprio fisico anche la propria psicologia e la propria mente. E quindi è quello che avviene, diciamo, è il luogo metaforico che io ho scelto per in qualche maniera rappresentare questa cosa. E in più abbiamo il prologo sì, che è un po' contemporaneo, no? Parla sì, degli attori e della crisi del teatro contemporaneo. Esattamente, perché il prologo, che è forse la parte più shakespeariana, perché poi della bisbitica domata, in base a tutti gli studi, non si sa quanto c'è di Shakespeare, quanto hanno manipolato il testo proprio della novella, della bisbetica, mentre invece il prologo contiene un nucleo molto shakespeariano, nel quale c'è una forte critica da parte di Shakespeare al mondo del potere, che in qualche maniera, per abuso di potere, si diverte a far pensare a un povero che non è mai stato povero, no? E che la sua povertà è sempre stata un sogno. E diciamo, la bisbetica è poi una rappresentazione di teatro che lui organizza per questo povero straccione. Io questa cosa l'ho messa in contemporaneo perché credo che oggi ci avvicina un po' il pensiero shakespeariano e ci fa capire come il pensiero shakespeariano rimane sempre universale all'interno della nostra vita contemporanea. E quindi vediamo un barbone della strada che, diciamo, un anarchico, un rivoluzionario, come sono questi che decidono di abbandonare tutte le cose, e che viene investito per strada da questo ricco signore, e questo ricco signore ingaggia una compagnia di attori disoccupati, perché oggi la presentazione di una compagnia di teatro, ho voluto non presentarla come la nobile compagnia reale, ma come una compagnia di disoccupati, no? Poi c'era un'eco anche lontana di un racconto di Benny su questo barbone che viene investito. Io un attimo interrompo Marco Carniti perché voglio andare sui due personaggi che sono in scena. Poi allora, Maurizio Donadoni, abbiamo sentito l'incipit della trasmissione in cui Petruccio fa questa dichiarazione di intento. Un Petruccio molto molto dirompente sulla scena, oserei dire, no? Noi ci ricordiamo il Petruccio del film con Elizabeth Taylor e Richard Burton, che è sempre un personaggio. Che cosa vuol dire poi paragonarsi anche a questi attori? Ma guarda, come diceva, buongiorno a tutti intanto, diceva bene Marco, non bisogna dimenticare che questo lavoro, cioè Shakespeare l'ha scritto come teatro nel teatro, molte volte durante le rappresentazioni di allestimenti viene tagliato il prologo, però invece il prologo è una parte essenziale in quanto stabilisce la convenzione, perché cioè, è giusto così, è giusto che la doma della bisbetica è un fatto squisitamente teatrale, non ha quasi niente a che vedere con la realtà effettuale, anche perché, e con quello che succede oggi, episodi non tanto sgradevoli quanto omicidi, insomma, sarebbe una roba veramente fuori luogo, sono argomenti anche molto delicati. Quindi con questo prologo si stabilisce la convenzione che quello che vediamo è squisitamente un fatto teatrale, è un gioco tra i due sessi. Quindi ci si può anche divertire su argomenti che per altri versi tanto divertenti non sono. Ogni rappresentazione, ogni allestimento è un fatto a sé. Certo, avendo due protagonisti fisicamente fatti così come io e Sandra, per forza l'impatto fisico deve essere forte, anche perché in questo gioco della commedia dell'arte è veramente un mondo rutilante, fatto di salti, urla, berci, cose fisiche, ed è abbastanza essenziale alla riuscita del lavoro, che infatti riesce anche perché sta carica di energia, perché anche se l'argomento può dare anche delle derive piuttosto serie, noi lo affrontiamo molto energeticamente per trascinare proprio la gente all'interno di due ore passate anche a divertirsi su un gioco di palcoscenico. Allora, sentiamo un pezzo dello spettacolo. Beh, allora, chi ti ha portato fino a qui? tipo di mobile? Uno scavello da mancano! Vieni, montami che ti porto! Gli asini sono fatti per portare, tu sei mio, io, un asino! E le donne sono fatte per sopportare, e tu... Sei donna! Non un peso morto come te si alludi a me! Ma Cati, io non ti volevo... caricare di pesi, casomai ti volevo coricare di peso, perché sapendoti bella, dolce, giovane, leggera. Leggera per un bifolco come te, e tuttavia pesante, appena appena quanto basta. Quanto? Allora, Sandra Collodel l'abbiamo lasciata alla fine, perché essendo la protagonista, volevamo darle... Avete fatto bene, ma lo sapete perché io invidio e anzi faccio i complimenti al nostro regista e al mio compagno di scena, perché riescono ad articolare discorsi, argomentazioni. Io non sono assolutamente ma in grado. Chi è Caterina per una donna di oggi? Chi è Caterina? Allora, chi è Caterina? Caterina è un grande divertimento, perché appunto, come hanno detto anche loro, è un grandissimo gioco teatrale, è una donna che riesce a giocare con questo suo partner, è una sorta di patto, di alleanza, un patto comportamentale, chi vince, chi doma chi, e questo in realtà quindi è un grande divertimento, insomma, scenico, con il proprio partner in scena. È una donna che, insomma, non so se esista nella vita una persona così, non credo proprio, insomma, si tratta di gioco teatrale, ecco. Oddio, ci sono delle donne che continuano a provocare, a cercare il maschio con la provocazione, non ne vedo più tante, insomma, comunque. Ma noi ci piacciono le bisbetiche, noi ci pregiamo di far parte di una categoria. Sto scherzando, insomma, perché anche la donna troppo sottomessa come Caterina alla fine, no, poi è un po' poco credibile. Vero, ma non è sottomessa alla fine, è tutto un gioco, non a caso dopo questo grande monologo che per cui Marco ha avuto un'idea secondo me geniale, insomma, di farglielo consegnare da Petruccio, cioè Petruccio che dice: questo è il comportamento, tu ti devi comportare così. Lei legge questa cosa, ma in realtà alla fine prende questo suo uomo e lo fa girare lei all'interno di questa grande gabbia, per cui appunto dicevo, chi doma chi, è tutto un gioco, non è vero che lei è sottomessa, è un patto che loro hanno e che instaurano fra di loro, come un patto d'amore, insomma, di ribaltamento di ruoli, di giochi tra di loro. Allora, la bisbetica domata. Io ringrazio Marco Carniti, il regista dello spettacolo, Sandra Collodella, appunto Caterina la bisbetica, Maurizio Donadoni. Ricordiamo, al Globe Theatre di Roma, Villa Borghese, alle 21:15 ogni sera fino al 5 settembre, e da dire, in un allestimento comunque poco ortodosso, come abbiamo sentito. Grazie. Arrivederci. Summertime. E adesso andiamo al Teatro dei Veleni. Sì, una cosa strana che accade a Lecce Galatina, una rassegna di teatro indipendente fino al 3 settembre. Sono in scena degli spettacoli, si parte con Non vedo con i tuoi occhi e poi si prosegue con altri spettacoli fino al 3 settembre. Alessandra Cocciolo Minuz. Allora, che cosa succede? Prima di tutto, a Lecce Galatina, chilometro 58, la location già è particolare. Salve a tutti, innanzitutto. Lo spazio nel quale avverrà la rassegna Teatro Indipendente è un grande uliveto, quindi che ospiterà vari spettacoli che hanno una particolarità, nel senso che hanno una circuitazione anomala, perché non hanno molta visibilità in un contesto salentino, diciamo, e non solo. Noi stiamo assistendo purtroppo ad una circuitazione culturale che è abbastanza anomala, quindi noi abbiamo voluto dare con questa rassegna spazio e voce a degli spettacoli che sono abbastanza innovativi e coraggiosi, che in altre realtà e in altre location appunto non trovano. Allora, ieri avete aperto con uno spettacolo, Non vedo con i tuoi occhi. Cecchi, un spettacolo che parla di due figure in un gioco di metafora, il dramma della privazione. L'una è ancorata al rigido conservatorismo, l'altra è spinta dalla vitalità del rinnovamento. In scena ci sei tu, Alessandra, insieme a Rossana Colonna, e entrambi sono consapevoli delle gabbie che costringono l'uomo. Questo spettacolo ha aperto la rassegna e, ricordiamo, la chiuderà il 3 settembre, giusto? Sì. Non vede con i tuoi occhi e nasce da una riflessione laica sull'oggi. Intende innanzitutto sottolineare che il vivere e il pensare diversamente innanzitutto è lecito e non è peccato, anche perché quella che in Italia in genere si ritiene diversità fuori dai confini nazionali è normalità. Come dicevi appunto, lo spettacolo è scritto e interpretato da due donne che denunciano innanzitutto l'ignara complicità forse di molti, che oramai sono diventati troppi, di questa sorta di perverso accanimento, di castrazione fisica, sociale, emotiva, sessuale che l'uomo di questo tempo e anche di questo paese vive. Chi è però il colpevole di questa castrazione, di questa afasia emotiva? Secondo noi il colpevole è senza dubbio chi si fa portavoce di etiche e di morali e che nel corso degli ultimi secoli e millenni ha sviluppato la formidabile capacità di snaturalizzare il corpo e l'emozione. Allora, poi il 27 agosto, Ante Caos, alle origini della scena, anche qui un testo tuo con Giovanni Pascali, gli allievi del laboratorio teatrale del Teatro dei Veleni. Di che cosa parla questo testo? Questo testo intende ricercare le origini del teatro, quindi vengono portati in scena alcuni momenti di rituali. Lo spettatore partecipe attivo e astante all'azione scenica. Anche qui Ante Caos si propone come ricerca, come voglia di scoperta e di riscoperta del corpo e dell'emozione contro la parola e la fredda ragione che anima oramai le nostre giornate e anche purtroppo i nostri palcoscenici. 30 agosto, Antigone da Sofocle, ovviamente, no? Quindi però un Sofocle, come dici te, in un uliveto un po' particolare. Sì. È un Sofocle, innanzitutto l'ambientazione è abbastanza suggestiva perché verranno utilizzati delle illuminazioni prettamente naturali. La caratteristica di questo spettacolo è che il coro, che è l'elemento cardine di tutta la tragedia, utilizzerà la metrica originale dell'epoca, poi comunque si muoverà con alcune coreografie studiate dalle cronache dell'epoca e con delle riproduzioni musicali degli strumenti dell'epoca. Antigone, la scelta di questo testo nasce comunque da una riflessione profonda sulla natura dell'uomo che, nonostante siano passati un po' di millenni, tarda a recepire gli insegnamenti che i classici normalmente ci insegnano. La metrica dei cori è curata da Eleonora Cocciolo. Allora, poi il 2 settembre, tanto per chiudere, Prometeo in blues, durante la dittatura dei colonnelli in Grecia, Alexander viene fatto prigioniero e nei suoi ultimi 5 minuti prima dell'esecuzione ci racconta di Prometeo, colui che donò il fuoco agli uomini. Tutto ciò avviene, come abbiamo detto, sulla strada 362 tra Lecce e Galatina, al chilometro 5.8. Teatro dei Veleni. Il 3 settembre, ricordiamo, si chiude con di nuovo Non vedo con i tuoi occhi, un rassegna di teatro indipendente in un uliveto a cura di Alessandra Cocciolo Minuz. Grazie Alessandra. Grazie a voi. E quella che sentite è la viola di Yuri Bashmet, che questa sera aprirà a Città di Castello, alla Chiesa di San Domenico, un festival molto importante giunto alla sua 43esima edizione, il Festival delle Nazioni. Abbiamo i solisti di Mosca e Yuri Bashmet, poi avremo tutto un programma fino al 5 settembre. Diamo il benvenuto ad Aldo Sisillo, l'organizzatore del festival che quest'anno rende omaggio alla Russia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, che cosa succede a Città di Castello fino al 5 settembre? A Città di Castello quest'anno il festival che dedica ogni anno a una nazione una rassegna musicale è dedicato appunto alla Russia perché è uno dei paesi che in questi ultimi anni sta stringendo i contatti economici e culturali con l'Italia. E dunque è un festival di musica da camera fondamentalmente, anche se ci sono alcuni concerti sinfonici, ma appunto si apre questa sera con i solisti di Mosca, un famosissimo complesso fondato proprio da Yuri Bashmet, che è forse il più grande violista del mondo in questo momento, ha un suono particolarissimo, così come i solisti di Mosca riassumono la scuola violinistica russa al meglio, come risultato più importante della grande tradizione violinistica. Ecco, io leggo sul vostro programma che non solo ai grandi solisti in questo momento russi dedicate questo festival, ma anche ai grandi compositori, no? Domani venerdì abbiamo Stravinsky, Prokofiev, insomma non è un'attenzione solo agli artisti contemporanei, ma anche ai grandi musicisti. Chiaramente, sono tre i filoni che esploriamo, diciamo, fondamentalmente. Il primo, che è quello meno conosciuto e ci interessa di più, è proprio il rapporto della musica russa con quella italiana, in particolare i grandi autori italiani che per ben 70 anni risiedettero a San Pietroburgo, chiamati da Caterina di Russia, dalla imperatrice Ivanovna, quindi Galuppi, Traetta, insomma gli italiani hanno insegnato in quel periodo la musica a tutto il mondo, come sappiamo, e per ben 70 anni rappresentarono la prima cappella musicale della capitale russa. E il secondo filone naturalmente è quello della grande scuola russa ottocentesca, che si è affermata appunto a partire dalla metà dell'Ottocento, quindi abbiamo Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky. Infatti Tchaikovsky poi ricorre due sere addirittura. Sì, Tchaikovsky più di una sera naturalmente, con la famosa serenata per archi che sarà suonata proprio dai solisti di Mosca, ma poi abbiamo un quartetto suonato dal quartetto di Borodin, alcuni lead, quindi Tchaikovsky sicuramente è uno degli autori anche più cari anche al pubblico italiano. Abbiamo anche una suite dal balletto dai balletti dello Schiaccianoci e Lago di Cigni, suonata da una giovane violinista vincitrice del premio Tchaikovsky, Anastasia Shebotareva. Il terzo filone invece esplora un filone importantissimo, che sono gli autori russi del Novecento, che hanno spaziato dalla musica da film alla musica per il grande balletto, pensiamo a Prokofiev e Rachmaninoff e in particolare Shostakovich. Daremo un'attenzione particolare a questo compositore che comincia a essere molto conosciuto anche in Italia, che visse più di altri le contraddizioni del rapporto fra intellettuale, musicista e il regime sovietico, pur avendo vinto parecchi premi, però più di una volta fu richiamato dalla censura per l'eccessiva ricerca. Infatti vedo che il venerdì 3 settembre avrete un artista del popolo, un concerto per Dmitri Shostakovich con Sandro Cappelletto, drammaturgia e voce narrante, quindi si narrerà questa storia? Sì, Sandro Cappelletto, che è un bravissimo diciamo didatta, un bravissimo fineditore, ha organizzato questa serata in cui, partendo appunto dal trio in mi minore, dal quartetto famoso di Tchaikovsky, parlerà proprio delle della vita di Tchaikovsky, delle tradizioni, delle difficoltà, ma anche dei meriti di questo compositore che ha attraversato una grande parte di questo del secolo scorso. Allora, io la ringrazio per il tempo a nostra disposizione, è finito. Ringrazio Aldo Sisillo. 43esima edizione del Festival delle Nazioni, un omaggio alla Russia quest'anno a Città di Castello, uno splendido borgo che va visitato a prescindere. E da stasera alle 21:15 nella maggior parte dei casi, oppure alle 18:30, i concerti dei nuovi musicisti russi e dei grandi compositori russi. Lasciamo Città di Castello, ricordiamo in provincia di Perugia fino al 5 il Festival delle Nazioni. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it o potete vedere quali sono gli appuntamenti della serata sul nostro sito www.radio24.it.